sul mare. Senti tu la mia canzone, questa chiama il suo amore, ed essa dice, vieni a me. Violetta, oh mia Violetta, non far soffrire questo cuor che per te senti amor, oh Violetta, senti amor. La mia canzone, vuoi venir nella gondola, noi andrem lontan sul mare. Senti la mia canzone, questa chiama il suo amore. Nella gondola,